ora che il passo accompagna lo sguardo infinito senza ostacoli. Non ho niente da trascinare, il vento mi fa guidare. Dentro il vuoto della mia esistenza, dentro un giorno che non ha importanza, ora il passo accompagna lo sguardo lontano, lontano, lontano, lontano. Amo gli uccelli, il vento e i tuoi capelli. Amo la terra e i fiori e i coralli. Amo i cavalli, amo i giorni, amo te che mi stai accanto. Amo la spinta forte che mi fa godere sempre un giorno di più. Un giorno di più. Passati a cercare un giorno da regalare, amo gli uccelli, il vento e i tuoi capelli, amo la terra, i fiori e i coralli. Amo i cavalli, amo i giorni, amo te che mi stai accanto. Amo la spinta forte che spinge il mio corpo. È un urlo di piacere.